8 9 film ci sono, e ci attacco stile cosa telefonico. Fai così, fai hai cosa c'ho microfono, fa le felici del attaccato nell'Inter che è 34S e basta, dico fabbricato che c'ha tu altri e basta, ho dovuto mettere quello perché era l'unico che si adattava un po' all'Inter che è FM500S, che rimaneva poco un po' di modulazione. Adesso già vanno bene di me mille. Ci abbiamo per tanti anni, ci abbiamo avuto, vanno alla grande. E che lui si chiama Static, ma hai sentito lei? Io la Static è modello vecchio, già lo conosco. Grosso rimane, mi sembra. Sì, ya. Sono bene i microfoni, sto. Escono bene. Pumpa, pumpa, burumba. Pumpa. Bisogna trovarli, la chat, se ne fanno pagare quei microfoni. Beh, i ragazzi li fanno pagare. Io lo so già. Come è pompa di bravo? Quanto sotto, eh? Ho capito, se pompa un mail? 87, un bel pompa di radio. L'87 sì. Sono convinto che se gli metti quel microfono che stai già da adesso, l'87 ha voglia, cazzo, c'è neanche l'avanzo. Già lo so, però questa non ha questa sei connessione. Lo so, quello c'ha sei connessioni come quella, come forma che c'ho io. Poi devi trovare anche le connessioni giuste, ci vuole un test, non è che puoi farlo così, Lo sai che c'è l'alimentazione esterna, se sbagli poco a poco si è fottuto, Capito? Già lo so, già. Una cosa del genere dovresti aprire il DM1000 e aggiungere un cavetto in più, perché mi sembra il DM1000 ne ha 5, ne ha cavi, sì, 5 cavi per diciamo. Devi aggiungere uno in più per alimentarti il DM1000 direttamente dall'apparecchio, così non stai a metterci la batteria. Ricordate che ragazzi solamente il più all'attacco della batteria da dentro al microfono, batteria dentro non le metti e sei tranquillo. Io dico, ma perché cavolo li hanno fatti così? Perché c'è l'up down, capito? C'è la questione dell'up down, ce l'ho anch'io nel grigio, l'avevo visto nel forma, quindi cambi il canale da microfono, poi per poter utilizzare il microfono normale deve essere alimentato dalla tensione che c'è dentro l'apparecchio, capito? Da quegli 8 volts, sono 8 volts, come il Mobico 40, il Mobico 45, non so se dimentica cosa, cioè, quelli, vabbè, montano il microfono col condensatore, sapete, in pratica sarebbe quella capsula piccolina che va alimentata. Riesci a comprendere che fa di gusti, beh. Vabbè, abbia pazienza, sono qua. Il microfono giusto che va bene per me, quello lì al limite, dopo svuoto tutto e vediamo un pochettino cosa andiamo a fare adesso. L'apparecchio a tempo che non lo uso, quando purtroppo le cose non li usi l'apparecchio a tempo, ti creano problemi, capito? Allora fa parte l'altra volta il 2009 sono andato a accendere, non riuscivo a accendere, tu no, non può essere. E cos'è il potenziometro dell'accensione? E si era appena ossidato, allora ho dovuto stare a spegnere, accendendo, poi è passato il CRC e si è ripreso. Capito? Ma la macchina c'è la barriera. Ce l'ho dalla, figurati, dall'80 ce l'ho. Adesso sono più di 20 anni. Più di 20 anni? Più di 30 si vende. È il primo che ho avuto nel 2009. Il primo che ho avuto. L'avevo comprato io. E altri tre di Sassari, l'ho comprato io Andrea Manicomio e poi altri due di Sassari, poi gli altri l'hanno comprato all'Alghero e l'ho comprato altri sei all'Alghero, capito? E sono la seconda serie in pratica la mia, perché la prima serie cazzo pigliava tanti di quei colpi, ho detto oh, non li voglio, l'avevo preso da Giorgio Grassi quel baracchino, figurati. Se lui che ce li aveva quelli lì. E io infatti ce li aveva lui, la mascherina che c'è vista con la lega che ci ho messo io, quella me l'ha data lui, E poi c'era, se ti ricordi bene, l'omologazione che dava l'adesivo per essere l'apparecchio omologato quando lo era. In pratica trasformava il 3009 e lo faceva diventare proprio la ruta 4S, frontalmente. Però dentro era il 3009. Sì, roba mancante. Lo sai quanto ne ho venduto di quelle mascherine? Venduto, vabbè, si comprava le baracchine e poi si faceva la mascherina da Giorgio. Giorgio dava la mascherina con l'omologazione adesiva, la metteva di dita baracchina. Infatti se ti faccio vedere il coso, il 3009 c'è dietro, c'era il come si chiama, l'adesivo, dove c'è scritto omologazione PT, articolo 334, eccetera, eccetera, capito? Umane, ti volevo dire una cosa, ma lui non c'è più lavorando, grazie. Ma penso che ci sia lui, lavorando. Adesso fa solamente satelliti e cose del genere, capito? Fa Skype, non fa ormai vendita di baracchine, non sta più facendo, ma con le antenne. Sta pensando solo a guadagnare con la questione di Skype e basta, vede, ricevi tu e butta, non parte. Vendeva anche parabole, penso che parabole le stia vendendo molto poche adesso, perché ormai Sky basta collegargli uno spinotto dietro della linea telefonica e vedi la TV tranquilla. Lo so, è più facile adesso. E a me non ti per applicare sopra il tetto per fare una parabola non basta, esci di campo. Prima c'era lavoro anche per tecnici, cioè la parabola si usa per il Mao mi la usa per vedere la televisione del suo paese. Un giorno mi pare tanto a me, Antonio dice perché non fai l'installatore per Sky, dice, così li venti ricco, mi ha detto, sì, ricco è sfondato dietro, gli ho detto, vai, ho detto, stai dici tu sopra, ti sta salendo vecchio, ho detto che è meglio, vai. Non sarei matto, ho detto che io salgo per farmi 70 euro, ho detto salgo sopra il tetto, poi mi trovo il tetto che per il colato ci scendo giù, e mi trovano, ho detto, con le gambe spezzate, gli ho detto, oppure morto, gli ho detto. E tu io ci salgo manco morto, gli ho detto, per stare a lavorare per Sky, vai, detto, ma senza essere neanche assicurato né niente, gli ho detto, vai, andrà, vai, gli ho detto. Vabbè, non è che... Dove si può mettere, dove non si può mettere la via in culo. No, una volta fatto i contatori, non è che non si può mettere la biglia in culo, hai capito? Quello pagava, diceva, arrangiati sopra il tetto, vai. Installa come cazzo ti pare, ti piace, basta che vedo Sky. Hai capito? La questione era quella, se lui se facevi il contratto devi per forza piazzargliela, una parte dall'altra devi piazzargliela. Se non la voleva la tira, voleva sopra il tetto, devi salire sopra il tetto. Se il tetto era pericoloso erano problemi tuoi. Ecco perché io cioè installazioni di parabole così a centro storico non l'ho mai fatto e mai ne farò. Ma prima di andare a installare la parabola controllo le condizioni del tetto, perché se il tetto è nuovo è un discorso, se il tetto è di quelle che hai con le sarde gli dico ascolti, faccia una cosa, si arrangi, se c'è il dato tecnico non va a giocare a ammazzarmi. Sì, vabbè, sei più grande, ma anni fa già hai fatto burbeggio. Sì, quando avevo 20 anni sono salito anche con la pioggia sopra il tetto, arrivando il temporale, e io sopra il tetto come un imbecille, roba di acqua mi sono preso, io e Emanuele, un giorno, e avevo anche la corrente elettrica agganciata per il trapano, tu immaginati, chiamavo cosa al cliente, ho detto per cortesia stacchi tutto, ho detto che sta cominciando a piovere, era mezzo sotto, era sono dovuto scendere giù a staccare tutto io, se no ce l'avevamo rimasti secchi sopra quel tetto. Il rischio c'è, ma non è detto, se non muore in chibi magari riesci anche a scintilla se la piglia in culo. E quel palazzino che ci sono lì a Moserratto, capito? Figurati, no, una volta non ne fregava niente, andavo, installavo e adesso ormai c'è un'età che c'ho, non ci penso nemmeno a salire sopra il tetto. Se il tetto non lo conosco non ci salgo. ci vuole poco a cadermi adesso. Non sono io, non sono come quelli che sacano sapete di loro che sparano la leva in occa. Devi fare molto attento perché se sgarri poco poco ti vado io su due e la para. Già non so, non sei più un ragazzino adesso, se devi stare attento. Devi stare molto attento. Sì, e se no quanti cucini pensavo prima. Cucine, lavatrici, e frigoriferi, e lì al centro storico, mi hai visto quelle scaline che ci sono, che sono alte. Immagina che sali vicino un frigorifero fino al secondo o terzo piano, a quando arrivare sopra eravamo morti, sì, tu, io e Emanuele. Se lo faccio adesso mi rimane le cose in mano, mi rimane il frigorifero, non riesco neanche a fare metà scalinata che ho già la fame. Poi in questo periodo che c'è questo lockdown qui è un casino, se non ti muovi perdi le forze delle braccia, perdi, capito? Mi hanno abituato a fare lavori manuali tipo muratura con mazzetta e scalpello, allora i muscoli che erano a posto, anche la forza era totalmente diversa. Ormai sono un bel tempo che non mi muovo, capito? Siamo sempre dentro casa, lampanti. Tu vedrai più di muratore quando venite a lavorare, libera un pochettino male a sollevare i blocchetti. Non so. Ma non manca per andare a fare gnicchi, Antone. Sì, quello già è questione di sotto, capito? Non è quello il problema. Intanto devi muoverti, salendo e scendendo. Ah, ti sta bello. Non so già. Sì, ci vuole un po' di muscolatura, ci vuole di sotto, capito? Quindi, l'importante è non fare come fanno i ragazzini, capito? Ma con 3 minuti già hanno fatto tutto, cazzo. Come i coniti. Sai che si sono frusciti qua, là. No, a me non mi piace, a me non mi piace. Mi piace spaccare. Sempre se rimane 2 o 3 ore a voglia che la contenti, ma se fai come i ragazzini, in 5 secondi gli hanno fatto, voglia, ma per la figura che ci fai. Chi sia chi so, non hanno mai visto, sono impallati. E invece, gli unici che si sanno sono i cinesi, a 15 anni lo fanno già, capito? Tu li vedi 17-18 anni già sposati, da loro, poi con un figlio o 2 figli, quello che è, capito? Poi a 19-20 anni, forse anche prima, si pigliano immediatamente la patente e i maschi vanno a, come si chiama, a giocare d'azzardo e le mogli ce le lasciano in negozio. I cinesi sono grandi lavoratori, non li fanno gli cose. Gli si slavano, gli si devono fare. Pensa quanti cinesi ho visto io lì alla piazzetta. Piazza giocando a tallone. D'azzardo e cose del genere. Le mogli in negozio l'hanno giocato giù. Tu già lo sai che ce ne sono parecchi che vivono anche addirittura dentro il capannone. Mangiano, dormono lì. Già lo so già che la fanno. C'era un amico mio che si faceva il giro del capannone cinese per andare a recuperare quello che buttavano. Prendeva, se lo sistemava e se lo vendeva. Di niente fai così, si chiama, è anche una mezza malattia, si chiama cosa precoce, una cosa del genere, praticamente vado tu è già fatto, non è bello lo so, ma tutti i ragazzini sono così, poi dopo ti arrivati 20 passa l'anno e allora cominciano a cambiare le cose, ma se lo fai 15 anni non sei manco un ragazzo, sei 20. Già quando voce, non ti preoccupare. C'era una ragazza che quando abitava al centro storico, abitava sopra di me, abitava. E prendeva sì, a posto di prendere gente grande di 30 anni, prendeva gente di 20 anni, capito? Se 18, 20 anni, anche 17 ne ho visto addirittura. Lei me l'ha tranquilla, quindi in tempo, ma neanche 5 minuti, già fatto, era. se si passa a pagare, fai, arrangiati. Ma ragazzi, non mi piace a me questa cosa, tipo coniglio, che vuol dire che c'ho a zocco brutto, perché non la soddisfa bene, non la molla la preda, tanto. Sì, se vuoi a pagamento qui 10 minuti e basta, di più non te ne dà, che tu hai fatto il nome, non hai fatto nulla a me, chi ti manda? Sì, già un gioco. Ma questo conti qualche pastore, cazzo, quel corto, ci impiega tre ore, e che deve venire con la pistola, come era successo una volta, che se abbiamo buttato la pistola, è stato tanto felice, finché non me ne vengono, non me ne vanno, ho detto, sono ti sparo. Ma chi, questo alla mignotta. E allora, quando è andato via, poi si è fatto una bella strampata dalla scala lui. C'è il culo, lui capo lo muro. Specialmente il periodo di coso, Natale, Pasqua, poi alle feste che c'erano lì al centro storico, salivano la gara dei pastori c'era, capito? Vabbè che adesso ormai alle 6 i bar sono chiusi, quindi ci sta già fatto la casa, già vedi brotti, fumate di acqua vita, poi quando stanno a Sassari bevono vino, poi vanno fino alle 6, poi vanno acqua vita, quindi figurati. E andare in Baciorazzi, andare in bar. Sì, ho visto parecchi di qui, partire da chi da Bono, chi cosa, andava lì a si arrivava a Sassari, capito? Adesso è diventato peggio, è diventato quanto sembra, è pensato là. Non mi sarei mai immaginato una cosa del genere, la verità. E lì coprifuoco non ce n'è lì, dalle 8:30 fino alle a mezzanotte. Ne approfitta perché non c'è nessuno qua. Non l'ho mai vista così via, sono nato, risulto era tranquilla. Adesso non si può, non si può più vivere, se ne vogliono tutti andare da lì. Già, lo so già. Intendo, ma che benino è, ma vedete il paese, ma lì. Qui ci si biscia braghetti. Ah no. Vabbè, appunto, forse lì aveva sequestrato la casa, cazzo, a quelli che hanno gli appartamenti lì, aveva sequestrato la casa, ma del tutto, no, che gliela sequestrano e poi gliela ridanno dopo un mese e mezzo, e aveva sequestrato del tutto, fatta fuori, a forse metterci quelli ci aveva messo, quindi questa comunità che stava arrivando là fuori, lì. Ci aveva messo quelli dentro, da oggi poi tu l'appartamento non ne pigli più, ci mettiamo di questa comunità di loro. E per quello che prostituzione sarebbe rimasta molto molto di meno, magari sarebbe andata a spacciare droga più che altro, perché già l'hai visto che in generale sono una cosa allucinante adesso. Sì, diciamo già. Beh, Antone, io mi sto per addormentare. Dai, ce lo risentiamo domani, ok? Buonanotte. Domani vengo, ti porto quello là. Vuoi riuscire a recuperarlo e te lo porto? Sì, già, va bene, già sono a casa, intanto non voglio qua. Già so che la ok. Ciao, ci sentiamo domani. Buonanotte e buon tutto. Ciao, buonanotte a tutti gli ascoltatori. Ciao.